Tutti i pomeriggi, quando la scuola terminava, i bambini venivano a giocare con il gigante, ma il bambino che il gigante amava non si fece mai più vedere. Il gigante era gentilissimo con tutti i bambini, eppure quel suo piccolo primo amico gli mancava moltissimo e chiedeva spesso sue notizie. «Come vorrei vederlo ancora», era solito ripetere. Passarono gli anni. E il gigante divenne molto vecchio e debole. Non poteva più partecipare ai giochi. Così, seduto su una grande poltrona, si limitava ad osservarli e ad ammirare il giardino. «Ho tanti fiori bellissimi, ma i fiori più belli di tutti sono i bambini», esclamava ogni tanto. Una mattina d'inverno guardò fuori dalla finestra mentre si vestiva. Ora non odiava più l'inverno, perché sapeva che era semplicemente la primavera addormentata e sapeva che i fiori si stavano solo riposando. Improvvisamente si strofinò gli occhi e guardò con meraviglia. Era certamente una visione incredibile. Nell'angolo più nascosto del giardino c'era un albero completamente coperto di fiori bianchi. I suoi rami, dai quali pendevano frutti d'argento, erano interamente d'oro e sotto c'era il bambino che il gigante aveva amato. Il gigante corse al piano inferiore con il cuore colmo di gioia e uscì in giardino. Attraversò velocemente il prato e si diresse verso il bambino. Quando arrivò vicino al suo viso, si fece rosso dall'ira e chiese: «Chi ha osato ferirti?» Sulle palme delle mani del bambino c'erano i segni di due chiodi e i segni di due chiodi erano anche sui suoi piedini. «Chi ha osato ferirti?» gridò il gigante. «Dimmelo, affinché io possa prendere la mia grande spada e ucciderlo!» «No», rispose il bambino, «queste sono le ferite dell'amore». «Chi sei tu?» domandò il gigante, mentre uno strano timore lo prendeva e si inginocchiò davanti al bambinetto. Il bambino sorrise al gigante e gli disse: «Tu, una volta, mi hai permesso di giocare nel tuo giardino. Oggi verrai con me nel mio giardino, che è il paradiso». E quando i bambini quel pomeriggio vennero a giocare, trovarono il gigante che giaceva morto sotto l'albero, tutto coperto di fiori bianchi. Lettura di Flory Brown.